Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Ci scusiamo per il ritardo tremendissimo e vi presento chi condurrà con me questa puntata, Giuliano. Ciao a tutti, ben ritrovati, anche se in ritardo, dai. Vabbè, dai, abbiamo tardato di un mesetto, abbiamo avuto un po' di problemi lavorativi e organizzativi, purtroppo. Adesso siamo pronti per una puntata di circa 4 ore e mezza finché non ci sciogliamo definitivamente davanti a... Perché non diciamolo che fuori c'è il forno a microonde. Sì, sì, sì. Infatti oggi ho salutato Giuliano con buon forno al posto che buongiorno. Esatto. Molto bene. Allora, io direi di cominciare subito con una novità che chi segue il canale Telegram è informatissimo e chi non lo segue dovrebbe seguirlo per essere informato. Allora, abbiamo lanciato una campagna di finanziamento del podcast. Oltre agli spicci che ci arrivano con Amazon, che sono sempre meno perché Amazon abbassa sempre, ogni mese tira giù di un pezzetto di punto percentuale i guadagni dai link sponsorizzati, soprattutto quelli tecnologici. Esatto. E diciamo che abbiamo pensato di fare una cosa nuova per finanziarci e con questi soldi spendere per migliorare il podcast. Fase 1. Come ci finanziamo? Praticamente voi ci donate 6 euro e noi vi regaliamo, è un po' brutto da dirsi, ma funziona pressappoco così, un adesivo di G-Cookies. Quanti ce n'è ancora disponibili? Ma forse io ne ho ancora 5 o 6. Perfetto, benissimo. Mario forse ne ha altri... Altre 3 o 4. Ah, Mario ovviamente vi saluta tutti anche se non può partecipare. Aspettiamo che la figlia cresca in fretta, che lo lasci nuovamente libero. Allora, se voi ci donate questi 6 euro, che sono poi 5 euro più 1 di spese di spedizione, e poi noi ci perdiamo anche i 60 centesimi di PayPal, se non erro, vi mettiamo il link nelle note della puntata, ci mandate l'indirizzo e vi spediamo l'adesivo. Che cosa facciamo con i soldi che ci arrivano? Stiamo facendo gli ordini per schede nuove che proviamo e vi documentiamo nelle prossime puntate del podcast. Giusto? Sì, ne vedremo delle belle, insomma. Sì, sempre se non le facciamo scoppiare. Il famoso smoke, com'era il holy smoke? Sì, giusto, è vero. oppure la puzza di plastica bruciata. Terribile. Aspetta, bisogna dire anche che di adesivi abbiamo una doppia scelta. C'è la scelta blu, la scelta verde. Perfetto, e nel modulo Google che vi forniremo, dove voi mettete i vostri dati, vi assicuriamo che li usiamo solo per spedirvi gli adesivi, non li usiamo per fare marketing, pubblicità, non li rivendiamo a nessuno, solo per spedirvi gli adesivi. Ma quale marketing te che... Metteteci solo il nome, il cognome e l'indirizzo giusto, se no non vi arrivano, ovviamente. Quello certo. E allora, io ho intenzione di comprarmi una scheda Arduino, la MakerFox, per provare, per farvi e per spiegarvi un po' come funziona la faccenda Sigfox, ma oggi ne parleremo. Giuliano, non mi ricordo che tipo di progetto hai. Io ho il progetto parallelo, e cioè vorrei prendere un insieme di una scheda che faccia da gateway e qualche schedina che funzioni con la rete LoRa e che poi si connetta a quella che si chiama The Things Network, che è una rete mondiale di sensori e comunque di gente che ha montato dei gateway e che si unisce per creare questa rete. Ovviamente cercherò, anzi sicuramente lo farò, di prendere la roba più economica possibile dai nostri amici soliti. Ah, ecco, sì, visto che ordiniamo mediamente le cose in Cina, non aspettatevi che il progetto arrivi con la prossima puntata, perché ci vanno 2 mesi per la consegna, bisogna lavorarci su con i nostri tempi, quindi abbiate fede, i progetti arriveranno. Diciamo che saranno progetti trimestrali. sì, direi il progetto del terzo quarter dell'anno, come dicono in Inghilterra. Io ho intenzione di fare una roba mobile o da mettere in box, dove il wifi di casa non arriva, in modo che mi avvisi quando si apre la porta e mi dica se c'è la macchina dentro oppure no. Oppure qualche cosa da mettere in macchina per capire se posso infornare il pane quando esco dall'ufficio oppure se posso solo far bollire l'acqua. Dentro la macchina. Esatto, perché secondo me ieri quando sono uscito dall'ufficio non c'erano meno di 60-65 gradi là dentro. Terribile. Ovviamente hai la macchina nera, giusto? No, rossa, però è indipendente perché abbiamo un bellissimo parcheggio che non ha niente sopra, non ha alberi, non ha niente. E quindi prende sole dalle 8 del mattino che arrivo alle 6 che esco. Mamma mia. È una cosa bellissima. Bene. Allora, vi ringraziamo in anticipo se volete finanziare il podcast. Tenete conto che i soldi che rimangono ovviamente li investiremo per migliorare nella tecnologia, nel software che usiamo per il podcast, magari ci compriamo il dominio, cioè abbiamo un tot di attività. Poi quando riusciremo a fare una puntata con Mario che lo leghiamo alla sedia, lui farà il resoconto come ogni anno, il resoconto finanziario. Esatto. Allora, di che cosa parliamo oggi? Perché è un quarto d'ora che stiamo parlando, ma non abbiamo detto di che cosa parliamo oggi. Diciamo che c'è stata una vaga anticipazione. Sì, ma veramente vaga, dai. Allora, stanno uscendo e stanno prendendo piede in maniera abbastanza pesante delle nuove reti alternative al GSM 3G, 4G, 5G e quello che sarà, quindi connettività internet mobile dove non c'è copertura Wi-Fi. Voi vi domanderete, sì, ma la copertura Wi-Fi c'è dappertutto? E io vi rispondo, no, se voglio monitorare un bosco con degli alberi non ho Wi-Fi là dentro, esatto. Per esempio. Oppure piuttosto che se voglio mettere un dispositivo, che ne so, dentro la mia valigia per sapere dov'è, la Wi-Fi non c'è. E quindi come posso fare per avere una rete che copra abbastanza e che non abbia i limiti del GSM, uno dei quali per adesso è la quantità di dispositivi attaccati alla cella? Perché non sembra, ma se si pensa, e Giuliano correggimi se sbaglio, io mi faccio la casa tutta connessa non sulla mia Wi-Fi, ma tutta connessa a internet, se metto 20 dispositivi in ogni palazzo è capace che ci sono 500 dispositivi connessi. Secondo me il GSM potrebbe collassare. Beh sì, anche perché poi essendo tutti così vicini si agganceranno tutti alla stessa cella e ciao. Esatto. Anzi, ciaone, come dice. Ciao. E quindi sono uscite queste cose che si chiamano LP1. LP sta per low power e sono anche con una frequenza bassa. Perché una frequenza bassa? Adesso i fisici che ci ascoltano mi spareranno, ma io cercherò di essere stringato, rapido e banale. Le frequenze sotto il gigahertz passano anche bene attraverso i muri. Quindi queste reti sono molto ampie, quindi hanno bisogno di poche antenne e coprono anche all'interno, giusto? Perfetto. Di conseguenza possiamo avere delle reti che coprono parecchio, che coprono anche all'interno di aziende, stabilimenti, appartamenti. Non so se arrivano anche nelle cantine, questa cosa la ignoro. Nello scantinato di sicuro non credo molti piani sotto, però ci si può mettere un gateway magari nel piano e secondo me sul piano, anche se sei interrato, funziona. Ah, quindi dici che almeno uno ci arriva, ok. Beh sì, certo. Quindi abbiamo dei grossi vantaggi. Il primo è che non sono dipendenti dai gestori di telefonia e questa è una grandissima cosa. Ah, ok. La seconda cosa è che poche antenne coprono una vastissima zona, perché se ora voi vedete il 4G ha bisogno di una fitta rete di antenne. Se voi viaggiate anche fuori dalle città c'è un'antenna ogni chilometro circa, ogni chilometro e mezzo. E pensa che col 5G la questione sarà ancora peggiore, ma molto peggiore. Con il 5G metteranno un'antenna per ogni isolato, da quello che ho sentito. Da quello che ho sentito praticamente, cioè non, la copertura è un po' più di un access point. e quindi diventa sempre più imponente la quantità di cose che si devono mettere a terra per far funzionare le cose in mobilità. Ho sentito di accordi per mettere le antenne sui pali dell'illuminazione pubblica, quindi pensa tu che tipo di rete fitta dovrà essere questa roba qua, per avere quel tipo di velocità ovviamente. Beh, il 5G arriva al gigabit? Sì. Forse anche di più. Teoricamente dovrebbe essere, forse anche di più, però non so adesso poi l'applicazione reale. Bisogna vedere poi le sperimentazioni che faranno e quando usciranno i primi telefoni con il chip 5G dentro e con l'antenna giusta. Torniamo alle Low Power One. Una antenna copre un sacco di chilometri quadrati. Per esempio a Torino c'è una collina a sud, messa un'antenna lì copre tutta la città, una sola. E si possono attaccare centinaia e centinaia di dispositivi. Che cosa hanno di limite queste reti? Il limite è che hanno pochissima banda, ma proprio poca. E in alcuni casi ti limitano la quantità di dati che tu puoi trasmettere. Sono fatte apposta per l'internet delle cose. Giuliano, secondo te un sensore di temperatura di quanti dati ha bisogno per poter trasmettere la sua... Pochissimi bit. Poi, cioè, se trasmetti veramente soltanto l'informazione della temperatura, quanto vuoi che siano? Pochissimo, proprio niente di anzi, probabilmente è più l'overhead del protocollo che il esatto. Stavo pensando, è più tutto il contorno che la vera misura. E quindi sono fatte apposta per l'internet delle cose, anche per dispositivi che si geolocalizzano. La trasmissione delle coordinate è comunque, mi pare siano 4 byte, una roba del genere, cioè è proprio poco. E quindi permetteranno a tutti questi dispositivi di essere connessi non su internet. Loro poi fanno da gateway per accedere a internet. Esatto. Di conseguenza, facciamo un esempio, io ho il mio sensore di temperatura della macchina, che sta in macchina, ovunque io la parcheggi so che prende, a seconda della copertura, siamo agli inizi, quindi la copertura non è così estesa per ora, lei ogni X manda i dati a questo gateway, che poi li trasporta su internet e poi noi li usiamo come vogliamo. Esatto. Un altro vantaggio enorme è quello che i dispositivi consumano pochissima corrente. Questo è uno dei, come si può dire, dei grossi vantaggi, è uno dei migliori vantaggi di queste, oltre all'indipendenza dal gestore, anche se poi insomma vedremo, sicuramente quello del basso consumo è un plus, non indifferente. Praticamente un sensore di temperatura, che quindi non hai bisogno di leggere la temperatura, non è bene. Ci sono sensori che devi leggere ogni secondo, però un sensore di temperatura che sta a casa, se ti manda la temperatura ogni 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, insomma, potrebbe anche essere interessante il fatto che duri 10 anni la batteria. A questo proposito, infatti, questi tipi di reti stanno nascendo, cioè stanno... vengono usate da gestori del gas, per esempio, per leggere i contatori, perché ovviamente quando tu metti un contatore del gas non è che puoi andare ogni 6 mesi, 3 mesi a cambiare la batteria. Metti la batteria, metti uno di questi apparati che trasmettono su queste frequenze e ne riparliamo fra 10 anni, quando probabilmente avrai già cambiato il contatore ma per altri problemi. Sì, diciamo che soprattutto sul contatore del gas, che è una cosa che penso stia coinvolgendo un po' tutti, perché tipo a me a luglio cambiano il contatore. Infatti. E quello elettrico è abbastanza facile da gestire, c'è la corrente e ci alimenti qualunque cosa dentro. Quello del gas normalmente non sta dove c'è la corrente. anche infatti, per ovvi motivi di, certo, di sicurezza. Di sicurezza. E quindi devi avere qualche cosa la cui batteria duri tantissimo. Non puoi pensare che ogni anno, quando mandi la bolletta, ci metti dentro la batteria a bottone. Senti, cambia la batteria sul contatore. Io non la cambio poi, quindi il gas non mi viene più conteggiato. Cioè, diventa veramente difficile. Sì, ma infatti, insomma, ci stanno studiando parecchio, anzi secondo me ci hanno già studiato parecchio, e l'applicazione praticamente c'è già e la stanno già mettendo in piedi. Sì, ma queste reti sono parecchio operative. Direi di passare a nominare una delle tre che nomineremo oggi. Mm-hmm. Allora, io sono preparato e informato sulla prima, dove Giuliano può farmi domande. Giuliano conosce la seconda, dove io gli farò tipo mille domande. La terza è una alternativa un po' particolare, e quindi ora faremo questa discussione dove io e Giuliano usciremo più informati di qualche cosa. Allora, la prima rete, che è quella che io ho conosciuto all'Arduino Day, è la rete Sigfox. La rete Sigfox l'ho conosciuta perché hanno presentato l'Arduino Maker Fox. E mi chiedevo, che cacchio è il Maker Fox? Sono andato a informarmi e ho scoperto che esiste questa rete, tra l'altro è europea, che copre, direi, il 60% del territorio circa. Mm-hmm. Per esempio il nord Italia è coperto quasi all'80%, cioè la copertura è abbastanza buona. E questa scheda di Arduino con la sua antenna si collega su questa rete, quindi non è Wi-Fi, e permette la trasmissione dati. La copertura, come detto prima, è sia dentro che fuori. Non è, per esempio, come il gestore di telefonia 3 che entri in un supermercato chiuso e non prende più niente. Qualsiasi riferimento è puramente casuale. Sì. Ma infatti ho abbandonato 3 per quei motivi lì. E praticamente ha alcuni limiti che sono abbastanza stringenti, ma se noi lo pensiamo come internet delle cose è abbastanza chiaro. Allora, praticamente c'è un massimo di frequenza di trasmissione di 10 minuti, cioè una trasmissione ogni 10 minuti. Il pacchetto che viene trasmesso dal dispositivo deve essere al massimo di 12 byte, e il pacchetto che viene ricevuto in download sul dispositivo è al massimo di 9 byte. Queste sono le informazioni basi. Un po' stringenti, insomma. E uno potrebbe dire, non ci faccio niente. Invece io ho guardato un attimo, per sensori di temperatura o di posizione che non debbano rivelare la posizione ogni minuto, secondo me si può anche fare. In Italia c'è un gestore solo di questa rete che si chiama Netrotter, e ovviamente questa rete ha un costo. Quindi praticamente questa è una rete che ha un gestore. Sì, c'è un gestore che ti permette di accedere, ti dà dei limiti, tu fai un abbonamento all'anno e quel dispositivo farà questa massima quantità di trasmissioni. Una cosa carina è che c'è il roaming mondiale gratuito, nel senso che se noi ci spostiamo col nostro dispositivo che è registrato sulla rete italiana Netrotter e andiamo, che so, in Francia o in Germania, dove ci sono degli altri gestori, il dispositivo continuerà a funzionare senza nessun problema e non ci saranno addebitati costi di roaming, a patto che la rete copra. Per la trasmissione della posizione, secondo me, è ottima. Cioè, sai, il classico container che vuoi sapere dove si trova. Ma banalmente la valigia. Tu vai in aeroporto, lasci la valigia. Se non mi sbaglio, in valigia la batteria ci può stare, perché io ci metto le batterie della macchina, sì, foto. Lui resta attivo e ogni 10 minuti ti dice dov'è. Quando tu atterri, sai dove diavolo sta la tua valigia. In quel momento puoi bestemmiare se ti accorgi che l'hanno mandata da un'altra parte. Esatto, prima che arrivi il nastro. Verissimo. E è un esempio, un altro, cioè non devono essere per forza in situazione di mobilità continua. Io penso alla casa in campagna, non voglio comprarmi una ADSL solo per l'antifurto. Certo. Io metto questi dispositivi su questa rete e io so che ogni 10 minuti, tanto se sono in campagna e l'allarme dell'effrazione arriva dopo 5 minuti, non. E quindi pensavo, cioè, che questi limiti non sono così stringenti sul fatto dell'utilizzo di un sensore. Tu pensa a un agricoltore che deve monitorare, che ne so, io ora di agricoltura non ne capisco una mazza, ma la quantità di umidità nel terreno di una enorme vigna. Lui piazza i sensori, mica deve avere un wifi che copre tutti i suoi 40 ettari di... Aspetta, però, volevo chiederti, allora, siccome sappiamo che per questa rete si paga un abbonamento annuale, no? Sì, dopo ti dico anche le tariffe. Ok, ma io pago un abbonamento annuale per ogni sensore o posso metterci X sensori e pagare un abbonamento annuale? L'abbonamento è per sensore, ma oltre una certa cifra fanno sconti. Vabbè, no, non ci sei. No, ma lo so che tu punti su Lora, ma ci arriviamo dopo. Perché io qualche cosa so di Lora. Allora, quanto costa Sigfox? Allora, se si compra la Arduino Maker Fox, ci sono 2 anni di abbonamento di tipo Platinum, che tra l'altro è il più alto. Allora, i livelli di abbonamenti sono 4. Partiamo da quello più base. Ogni tipo di abbonamento può essere o per sviluppatore, quindi tipicamente per tutti gli ascoltatori del podcast, oppure commerciale. Significa che io vendo questo dispositivo e ne pago un abbonamento per farlo funzionare dal mio cliente. Quello lì base, che si chiama One, permette 2 upload e nessun download ogni giorno. Non so a che cosa possa servire, ci ho pensato a un qualche dispositivo che mandi solo 2 letture, ma non mi è venuto in mente niente. All'anno costa 9 euro per lo sviluppatore, 12 euro e 80 per il commerciale. Saliamo col livello successivo, che è 50 upload e un download al giorno, che per gli sviluppatori fa 11 euro. A questo punto, da 2 a 50, io prenderei quello da 1. Effettivamente. Per 2 euro. Ma guarda, poi saliamo e insomma. Sì, saliamo il gold da 100 upload al giorno e 2 download e costa 12 euro, sempre per lo sviluppatore, e il platinum, che da 140 upload e 4 download costa 14 euro. Secondo me quelli sotto al platinum non servono, punto. Non so, dunque 140 upload al giorno farebbe... quanti upload al... Mi pare sia la frequenza massima, una ogni 10 minuti. Aspetta, allora, dunque, abbiamo 24 ore per 60 minuti, 1440 diviso 140, sì. E ogni 10,2, quindi sì, più o meno, dai, praticamente ogni 10 minuti per ogni dispositivo. Quindi l'importante è che se vi comprate una scheda che vada su rete Sigfox, dovete sapere che poi bisogna pagare per... Esatto. Sigfox vende una sua scheda, che costa, mi pare, una settantina di euro, è compatibile con come forme con Arduino 0, Arduino 1, la prima serie, non le serie Fox. Ah, ok. E ha dentro, oltre all'antenna, anche l'antenna GPS. Quindi in teoria quello è un pacchetto già fatto per la localizzazione. Bellina. E il costo qual è? 70 euro. Quanto? Mi pare una settantina di euro. Allora, io ho fatto quattro chiacchiere con il commerciale di Sixfox. Poi gli ho mandato una mail, guarda, siamo un podcast, se tu me la mandi, io la provo e te la rimando, magari ti ci faccio una recensione sopra. Sparito. Eh beh, certo. Tieni conto che per contattare i signori di Sixfox ci ho messo 4 settimane e almeno 12 mail. Non ho capito perché, cioè, se devi vendere un prodotto, perché non fai in modo che uno lo possa comprare in modo facile? Non capisco questa roba qua. Sono i misteri dei commerciali, guarda. Verissimo, verissimo. Una cosa interessante del Maker Fox è che con una batteria lipo e col processore che hanno messo dentro, perché non solo hanno messo l'antenna Sixfox, ma dentro l'Arduino il processore è un processore a bassissimo consumo, danno una durata stimata della batteria di 2 anni. Che confrontata per esempio con le mie ESP, che le mie 3 batterie stilo ricaricabili di Amazon durano 3-4 mesi, comincia a essere interessante la faccenda. Sì, indubbiamente il vantaggio della rete Sigfox è che, diciamo che è già stabilizzata, nel senso dove c'è la copertura è già, insomma, a posto, tu non devi scervellarti molto. Perché comunque il gateway è già bello montato, insomma non hai grandi problematiche di progettazione. Tu prendi la schedina, ti fai il tuo sensore, paghi l'abbonamento se non hai comprato quell'Arduino e cominci a trasmettere. Ma dopodiché, aspetta, ok, i dati li mando, ma poi dove arrivano? Cioè, ho un account da qualche parte dove li allora, vedo. Funziona. Io ancora non l'ho provato perché non ho ancora fatto l'ordine dell'Arduino, ma quando ti mandano la scheda, il dispositivo ha un ID univoco sulla rete, tu lo registri e poi ci sono delle API. Le API fanno sì che tu possa mandare questi dati e dire al gateway mandali di là. Okay. Quindi secondo me in qualche modo devi avere tu un dispositivo su internet che sia in grado di parlare con il gateway Sigfox. Cioè, allora, dunque, quindi, il sensore, per esempio, manda i dati, sì. Però poi tu ovviamente devi, cioè, li vedi dal PC, insomma, non ovviamente, cioè da qualcosa. Allora, che... secondo me lui li manda al gateway, poi tu hai un serverino web da qualche parte che è in ascolto, il gateway prende quei dati e li schianta sul serverino web. Ah, dici? Secondo me sì, non parlarmi, cioè non chiedermi di quale protocollo stiamo parlando perché non ho ancora visto la documentazione. E quindi praticamente mi raccontava il commerciale, è assolutamente trasparente, cioè tu fai la chiamata dando già l'indirizzo del server a cui vuoi scrivere. Il gateway è trasparente su questa cosa e quindi poi esce su internet normale. Cioè i dati loro te li mettono a disposizione, ma sei tu che devi elaborarli, diciamo, cioè, o comunque usarli. Sì, sì, sì, loro fanno solo da passaggio. Ok. Loro ti offrono la via, poi tu li usi come cioè è come se dovessi accedere al database dei dati dei miei sensori. Sì, giusto, giusto. Secondo me neanche, no, secondo me è il sensore che scrive sul tuo database passando dal gateway Sigfox. Ah, dici, ma aspetta, ok, quindi il gateway è trasparente, quindi tu dici al sensore, scrivi su quel server là. Giusto. Ma aspetta, perché a seconda del protocollo che usi 12 byte, insomma. Secondo me, allora, se lo hanno fatto funziona bene. Bisogna capire un attimo, dunque, un indirizzo IP sono 4 byte. La lettura di una posizione mi pare siano altri 4 perché sono 2 numeri in virgola mobile, mi sembra, e siamo a 8, sì, ci stai dentro. Ma Non lo so, cioè, forse lo stiamo, Sopravvalutando? no, capendo male, nel senso che non so se sia esattamente così, non lo so, cioè, non so se sia la trasmissione, cioè, non so se è dal sensore che la trasmissione viaggia direttamente verso il tuo server, oppure il Sigfox ti mette a disposizione una sorta di gateway dove tu dici quando arriva questo dato qua, buttamelo là. Ah, può anche essere che tu ti registri e Questo. dici tutto quello che arriva da questo sensore me lo mandi là. Questo sto pensando. Perché comunque Potrebbe 12 essere. byte, insomma, non so. Mi fa sempre ridere che noi parliamo di 12 byte quando abbiamo internet a 300 megabit. Sì, esatto. Cioè, andiamo al minimo, minimo, minimo, ma volendo. E questo è quello che è Sigfox. Il vero vantaggio è che è già fatta. Perché Esatto. adesso direi che possiamo passare a Lora, dove io so poco e Giuliano sa un sacco, e ora lo tartasserò di domande. Boh, Giuliano sa un sacco, questa è un po' una sopravvalutazione, una stima molto, molto, molto grande. Rispetto a quello che so io, che è uno, anche se tu sai 5, è tanto, No, che vabbè, 5 ma io volte di più. posso arrivare anche ad 1,5. Ah, perfetto. Sono tutto Allora, orecchi. guarda, diciamo che la filosofia della rete è per quello che riguarda le frequenze, quindi il tipo di banda, eccetera, siamo là perché sono comunque tutte e due delle LP1, quindi sul lato fisico probabilmente stiamo parlando della stessa tipologia di trasmissione ricevuta. L'ora non è una rete, come si può dire, proprietaria di qualcuno, ma è uno standard che è stato stabilito e c'è un consorzio che si chiama LoRa Alliance che stabilisce appunto gli standard di questa rete. La cosa carina qual è? Che chiunque può installarsi una sua rete LoRa. Ti piazzi un gateway, piazzi i tuoi sensori, i sensori trasmettono al gateway, il gateway se è collegato ad internet, avrà un motivo per cui si chiama gateway, trasmetterà i tuoi dati verso un tuo server, verso una scrittura di un database, eccetera, eccetera. Come copertura siamo più o meno lì. I dati che ho io dicono che Sigfox in campo aperto fa leggermente più distanza della rete LoRa, ma non sono particolarmente convinto anche perché dipende molto dal sito in cui vai a leggere, perché ho trovato anche dei riferimenti che dicono che addirittura si possono fare distanze superiori ai 100 km, ovviamente in ambiente favorevole, dice. Quindi dal casello della Torino-Milano al casello della Torino-Milano, dall'altra parte una antenna dovrebbe riuscire a prendere. Mi sembra tanto, eh? Guarda, anche a me sembra tanto. Diciamo che qua dice in ambienti favorevoli. Quali siano gli ambienti favorevoli? Tipo la luna o una pianura, il deserto, non lo so, una cosa del genere. Insomma, non ce ne deve essere nessun ostacolo. Anche perché passiamo da ambienti favorevoli ad ambienti semi-rurali dove dice che fa 15 km. Cioè, mi sembra tanta la differenza. Cioè, se c'è un albero, già i 100 km non li fai più. Cioè, insomma, comunque, io direi che mi fido più di una misura che dice che fa 15 km, che mi sembra una Beh, che misura un pochino comunque più reale. un'antenna a 15 km non è male, No, e tra eh? l'altro. Significa che puoi mettere una antenna ogni 25, ogni 28. Esatto, perché poi alla fine copre un diametro di 30, quindi insomma, Sì, sì, sì, non è sì. E mica quindi, male. per esempio, su una città come Torino, una basta. Allora, lì poi entra in gioco il discorso di quanti sensori si possono leggere, cioè quanti sensori possono trasmettere contemporaneamente, cioè ci sono tutta una diversa, però sì, cioè come distanza, come copertura effettivamente si potrebbe coprire tutta la città con un'antenna. Ma cioè tu pensa di andare a Roma, metti 5 antenne e hai coperto tutta Roma. Ma guarda, in maniera anche abbastanza capillare. Allora, io so che ad Amsterdam, per esempio, hanno coperto tutta la città con, se non ricordo male, 5 o 6 antenne. L'ho letto da qualche parte, potrei ritrovarlo, però è così, cioè nel senso molto molto molto poche. Lì quindi il discorso che tu dicevi prima dell'agricoltore che deve mettere su dei sensori per controllare diversi terreni, eccetera, eccetera. Guarda, più che dell'agricoltore, l'esempio molto più pratico è quello del viticoltore, dove ci sono dei campi un po' grandi dove pianti le viti per il vino, e lì devi in effetti controllare magari la temperatura ogni tot metri. Ovviamente tu pensa che sicuramente non avrai la copertura né della rete elettrica e quindi neanche del wifi, quindi mettere un gateway che ti copre 15 chilometri, anche perché la vigna non è mai, a meno che non sia collinare, però comunque cioè, non è, come posso dire, non ha molti ostacoli tra un filare e l'altro, per cui piazzi i tuoi sensori, piazzi il tuo gateway, non paghi per ogni sensore, scusa se mi permetto di sottolineare questa piccola non cosa. Paghi, è non gratis. È gratis. No, ma poi tra l'altro il discorso qual è? Che è gratis, cioè non c'è manco un abbonamento di uno, vabbè, pago per il gateway, ma non c'è manco quello. No, perché sono frequenze libere. Sono frequenze libere. Forse potrebbe esserci il problema se tipo 10 persone mettono il loro gateway nello stesso... Forse potrebbe dare un po' fastidio. No, allora, intanto ci sono diversi canali. Quindi, sì, come Wi-Fi. Esatto. E tra l'altro, a parte che ci si potrebbe anche mettere d'accordo, mettere un solo gateway con diversi canali e quindi non avere magari problemi di interferenza uno con l'altro. Questo sì, ma tu vedi le persone in un condominio che non si mettono d'accordo sul colore della pulsantiera dei citofoni a mettersi d'accordo su un gateway LoRa? No. Ok, non, perfetto. No. La penso esattamente qui. guarda, ho esempi proprio qui. Stavo dicendo, quindi mettiamo i sensori, mettiamo il nostro gateway che è un nostro gateway proprietario, quindi siamo noi proprietari del gateway, non abbiamo un gestore, dopodiché i dati arrivano al nostro gateway e da quel punto in poi ne facciamo quello che vogliamo. Una delle cose che si può utilizzare velocemente è appunto quella del Things Network, cioè che è un'associazione di persone, di utenti di LoRa che collegano il loro gateway a questo sistema a questo provider, diciamo così, che ti permette di vedere i tuoi dati e farne elaborazioni e volendo renderli anche pubblici. Non so, quale possa essere il discorso di rendere pubblica l'illuminazione pubblica, ma non lo so, ci sarà qualche applicazione. Ma guarda, secondo me la nostra fantasia è limitata perché non conosciamo tutto quello che avviene nel mondo, ma io sono convinto che se tu vai a parlare con qualunque persona che lavora in un qualunque settore, che caspita ne so, quelli che raccolgono l'immondizia, e hanno bisogno dei sensori dentro ai cestini per sapere se sono pieni, sì, se sono in piedi o per terra, piuttosto che davvero l'illuminazione pubblica dove devi controllare se in un posto c'è un problema particolare, se si stanno fulminando troppe lampadine. Cioè comincia, forse l'illuminazione pubblica tu potresti lavorare anche con la rete, quella lì a onde convogliate. Sì, ok, però dovresti avere, penso, un sempre gateway per ogni quadro, perché poi quando inizia a derivare... Ah beh sì, il i vari quadri spezzano questa Sì. cosa qua e non ci arrivi più. Poi, che ne so, io lavoro nel settore della distribuzione organizzata dei supermercati. C'è un problema che non è di poco conto: le cassette. Le cassette non sono solo quelle di legno che si buttano via, ce n'è un tipo di plastica che si montano e si Ah, smontano. sì, ok. E c'è tutto un sistema per sapere chi ha quante cassette, perché quelle cassette hanno un costo. E ogni tanto va fatto l'inventario di questa roba. Tu pensa di avere su ogni cassetta il suo maledetto sensorino e sai dov'è. E sai Ma quante ce n'è nel singolo punto vendita. In effetti, con un gateway LoRa per ogni punto vendita oppure per ogni città sei a posto. diciamo che lì bisogna fare i conti, perché io questa cosa qua l'ho anche già proposta per tracciare, per esempio, i pallet, ma non proprio il pallet, ma il pallet nel senso il trasporto del pallet, perché ci sono delle merci che magari non devi far girare, comunque devi tenere in una certa posizione, quindi capire se è quella posizione. Mi dicono, sì, ma quanto costa il sensore che poi comunque probabilmente andrà perso, e quindi lì dipende molto da quanto costa la cassetta e quanto ti costa il sensore. Cioè, alla fine vale la pena di Vabbè, mettere un sensore sulla cassetta che magari costa 3 € e il sensore ti costa 10 euro. secondo me No. però se vai sulle quantità poi i prezzi crolla. Ho questa sensazione. Può essere, ma magari poi tra l'altro non tanto acquistandole, ma costruendolo, facendolo costruire in quantità tu stesso, forse sì, in effetti il prezzo potrebbe variare, ma non so se si avvicinerebbe mai, o comunque se starebbe sotto quello della cassetta. Ah Vabbè, comunque beh, questi bisogna, sono. cioè lì è una indagine molto profonda da dover fare. Ma secondo me, se tu cominci ad applicare questa cosa qua in ambiti che non conosci e che scopri di essere, oh mamma mia, ma se li controllassimo in questo modo sarebbe molto meglio. Guarda, di questa ne ho una prova, perché proprio ieri o avantieri ne ho parlato con un amico che lavora per un'azienda. Cioè, no, non ti posso dire, perché non so se lui vuole che io sveli la questione, però andavano o volevano implementare una rete Zigbee Sì. per aggiornare dei particolari sensori, e io gli ho detto, ma scusa, piuttosto che quella che comunque è così, così, così, e tra l'altro sì, non ha un piccolo raggio, ma non ha neanche un grande raggio d'azione la rete Zigbee, perché non provate invece la LoRa, che comunque, sai, dentro un supermercato che comunque ha degli scaffali, ma se tu metti l'antenna in alto, probabilmente riesci a coprire tutto il supermercato con un'antenna se la metti in centro. Per cui, insomma, adesso vediamo come. Sì, tieni conto che per esempio sui supermercati e sui magazzini ho scoperto una roba drammatica. Gli scaffali con gli alcolici sono terribili per le onde. Con gli Cioè, alcolici. sì, non Ah. so che differenza faccia gli alcolici dall'acqua, magari qualche ascoltatore è più informato e ce lo sa dire, ma con scaffalature piene di alcolici il wifi non va da nessuna parte. Ma questa, guarda, ti giuro, questa non la sapevo. Capisco la scaffalatura metallica e ne ho anche brutte esperienze. No, ma su questa Pronto? storia degli alcolici, veramente giuro, è la prima volta che lo sento. Pronto? Giuliano? Però, dico, Giuliano, non sei si finisce morto? mai di imparare. Mi senti? Mi sono fermato a Neo. Sì, vabbè, sono andato avanti sul discorso. Ne ho un'esperienza diretta di questa storia delle scaffalature metalliche, quindi insomma è abbastanza. Però di questa degli alcolici, giuro, non sapevo No, assolutamente parlavo con niente. una persona che gestiva la logistica in un magazzino dove stoccano solo alcolici e ha detto che per i wifi del magazzino pensavano di poter mettere gli access point ai quattro angoli e invece no, ne hanno dovuto mettere uno per ogni corsia perché lo scaffale era un muro per le onde. Ma caspita, cioè, guarda, non si finisce veramente mai di imparare. No, no, ma ci sono delle cose bestiali. Per esempio, andiamo un attimo fuori tema, sai? Ma sì, dai. Le etichette, quelle dei prezzi nei supermercati, o con le LCD o con le ink. Sì, sì. Sai com'è che passano i dati alle etichette? No. Se tu alzi gli occhi nei supermercati dove che le hanno, ci sono delle specie di lampadari pieni di specchi. Uh-huh. Quell'affare lì è un trasmettitore a infrarosso che a pioggia manda tutti i dati di tutte le etichette del supermercato, anteponendo il codicillo, e l'etichetta che è coinvolta prende e memorizza. Ma dai, quindi loro vanno tutto con l'infrarosso. Cioè, e l'etichetta, cioè, arrivano all'etichetta con questa storia qua? Sì, perché se tu immagini come è fatto il supermercato, il supermercato ha gli scaffali con le etichette che guardano dove sei tu. Gli infrarossi si riflettono molto molto bene. Mm. E questi trasmettitori sono in alto, quindi è come se bagnassero di infrarosso tutto il punto vendita. Ah, sta cosa non la sapevo. Bestiale, bestiale. Me ne sono accorto perché in un punto vendita dove ho dovuto fare cambio della rete non funzionavano più, perché questi trasmettitori hanno una loro rete specifica. Cioè, in un negozio che vende specchi è un casino. Non penso che abbiano quel tipo di etichette. Non so, però vabbè. Questa era, in effetti, lì una rete l'ora ci andrebbe a pennello. Domanda, tornando, quanto costa il gateway l'ora? Ah no, guarda, ho visto robe che si montano su Raspberry da 20 euro. Oh, aspetta, moment, diciamo che partiamo da 20 euro per un gateway monocanale. Con caratteristiche minime, ovviamente, cioè, se tu metti un gateway per una città non spendi sicuramente 20 euro. No, no, ma pensavo per chi vuole farsi la sua rete l'ora, che caspita ne so, per il condominio o per l'ufficio. No, allora, ecco, diciamo che per un ufficio che comunque ha diversi sensori e andrebbe con diversi canali, secondo me un qualcosa tipo sui 300 euro, 400 euro si trova già qualcosa di interessante. A casa, se uno vuole farselo per casa propria, secondo me con quello shield che ho visto per Raspberry, 20 euro, 30 euro dai soliti amici. Sempre, sempre cinese, sì. Beh, da dove lo vuoi prendere? Guarda, forse qualcosa americano, ma oltre quello non... Ma tanto gli americani se li fanno produrre dai cinesi. Esatto, infatti. Anche perché, venendo alle nostre parti, Arduino per il momento non credo abbia fatto qualcosa di l'ora, quindi insomma... Forse c'è qualche shield per Arduino, ma non è di Arduino. Sì, per Arduino c'è qualcosa, ma soprattutto non tanto come gateway, ma soprattutto come sensori, anche perché il gateway richiede un po' di processore, ovviamente, per elaborare poi quello che arriva e rimandarlo. E chiede anche una connessione Wi-Fi o Ethernet fare da gateway, se no certo. Non ha senso. E infatti, per ho paura. Questo, ci sono schede che fanno da sensore, sia schede che fanno anche da gateway, con l'ESP però 32, perché giusto perché il processore conta anche. Metti i link nelle note, mi raccomando. Poi metteremo tutte cose, come dicevo. Comunque secondo me i signori di ESP ti pagano, ho questa sensazione. Guarda, purtroppo no. Purtroppo no. Però signori di ESP, se ci ascoltate, perché so che ci ascoltano in Cina, proprio ci ascoltano di brutto, cioè, dico, non mi pagate, però siccome ogni tanto mi viene da comprare qualche schedina eccetera, se almeno quelle me le mandate gratis per provare, poi ve le restituisco, però almeno, sai, mi risparmio qualche... Tanto sappiamo tutti che le rendi con un progetto che non è finito, perché è nella nostra indole cominciarne 8 e non finirne neanche uno. Assolutamente, ma guarda, sul tavolo, guarda, senza voler essere poco modesto, ho 1, 2, 3, 4, 5 ESP e 2 Arduino su progetti, questo a metà, quello a tre quarti, quello a un quarto, non ne ho finito ancora nessuno. Sai cos'è che dovresti fare? Con me funziona. Visto che mi sono accorto che questa cosa dei progetti che tu cominci e non finisci, perché tipicamente tu cominci sull'onda dell'entusiasmo. Wow, che figo ce l'ho, adesso faccio questo. Poi dopo tre ore che ci lavori c'è il figlio che ti chiede, la moglie che ti dice che è ora di mangiare, devi esatto. uscire, devi fare commissioni, è ora di andare a dormire perché tipicamente cominci dopo cena e sono le tre del mattino. Il giorno dopo la verve è un attimo calata e poi hai la verve per cominciarne un altro nuovo senza aver finito quello di prima. Esatto. E quindi cos'è che ho pensato e funziona? Dai. Nascondi tutto tranne uno e quello te lo lasci lì e lavori su quello lì, basta. Solo su uno. Anche solo mezz'ora per ogni volta. Funziona perché se tu hai un progetto solo e un obiettivo solo, anche se ci lavori poco, lo porti avanti. Sì, se invece tu ne hai 8, prima che pensi che ma quale faccio oggi, è passata la mezz'ora. Lo so, Francesco, ma quando nella posta ti arrivano le offerte e tu vedi che una scheda questa la prendo, poi arriva, cosa fai? La metti da parte per 2-3 mesi? Come fai? Io ho delle WMOS che sono ferme lì da un anno. Vedi. E infatti una non funziona e la butterò via, perché bisogna ricordarci che le cose che arrivano dalla Cina, se non dite subito che non funzionano, sì. Le avete perse. Però purtroppo funziona così. È complicato, guarda, devo disciplinarmi. No, è un fatto di disciplina, assolutamente. Per esempio, io in questo periodo non porterei mai avanti un progetto, perché il solo pensiero di dover accendere il saldatore mi fa venire l'ansia. Certo, quelle sono cose per l'inverno. Per esempio, mi sono comprato il display e-ink per il Raspberry e adesso vorrei quello lì grosso, perché quello lì piccolo ci devo fare il display della situazione di casa, e su quello piccolo ci sta proprio poco. E soprattutto ho un sacco di schede che dico adesso le ho, ma che cosa ci faccio? Guarda. È brutto invece un'altra cosa, perché io saprei già cosa farci, il problema è che non ho il tempo di farlo. Ma tu non puoi farlo quando vai in trasferta la sera? Sì, ma guarda, cosa mi rendo? 2 ore così. Qualcosa faccio, ho fatto, ma hai visto qualcosa. È sempre meglio che nulla. Sì, ma infatti ogni tanto qualcosa butto fuori sul forum, cioè sulla chat su Telegram, ogni tanto butto giù qualcosa su Twitter, però molte volte sono cose che richiedono anche un po' di freschezza mentale e quando arrivo alle 8 la sera sono veramente quasi cotto. Purtroppo sì, il fine settimana dove la mattina sei abbastanza fresco devi fare tipo 842 cose come registrare il podcast e quindi non puoi fare nulla. Comunque ci impegniamo sia io che te a fare il progetto con le schede che compriamo con i soldi che gli ascoltatori molto gentilmente ci hanno donato. Sì, questo sì. Questa è priorità. Anche perché anche di quella là. Tu hai detto vorresti fare questa cosa del garage o della macchina, ma io ho già anche in mente il progettino da fare, e cioè siccome a casa ho diversi sensori wireless per l'allarme anche di temperatura, eccetera, vorrei applicare l'ora a questa cosa qua, però... E diciamo che una volta che decidiamo di buttarci su quel progetto lì faremo solo quello, altrimenti non se ne esce. Se no poi gli ascoltatori si sentono traditi e non è una cosa che a noi piace. Diciamo che il progetto che ho in mente io, quello forse più facile, perché non sembra, ma mettere delle cose in macchina non è così semplice, e mettere l'Arduino sul soffitto del box con un sensore a ultrasuoni, che quando c'è la macchina vede che l'altezza da pavimento è minore, quindi se lo interrogo mi sa dire c'è la macchina, non c'è la macchina. Per esempio noi abbiamo un solo box se io so se la macchina della moglie c'è, io non entro in box prima di tirare su, e quando lo apro vedo che c'è la macchina dentro e devo fare manovra per uscire. Certo. Oppure banalmente lo uso come antifurto, visto che tra tutte le cose che mi hanno aperto mi hanno anche già aperto il box. Se la porta si apre, suona, mi fa il beep e io so che sono io o è mia moglie, oppure se non è nessuno faccio il 112. Sì, no, allora la cosa interessante, ed è anche un'applicazione abbastanza pratica, per cui secondo me riuscirai a farla sicuramente. Perché Vediamo se il caldo molla, perché con questo caldo sudo anche stare seduto davanti alla PlayStation con il pad in mano. Però dai, c'è un trimestre, da qua ancora abbiamo la possibilità di farlo, quindi quando si arriverà a ottobre, novembre, insomma, che quando lì il caldo comincia a scemare. Lo farò mentre vengo in vacanza in Sardegna. No, non ti portare queste cose perché altrimenti hai perso. Non mi porterò niente, anzi comprerò tutto lì, anche l'ombrellone, perché sull'aereo non me lo fanno portare. Ah, questo è sicuro. Vediamo un attimo di tirare qualche altra notiziola sull'ora e poi chiudiamo la parte d'ora. Allora, abbiamo divagato solo 20 minuti, non è un problema. Ma sì, ma cioè, chi si sente ci ha fatto l'abitudine. Allora, ecco, una cosa sull'ora che è diversa da quello che è Sigfox è la possibilità di avere anche una trasmissione continua dei dati, cioè non c'è il discorso di dover fare una trasmissione ogni massimo 10 minuti, ma addirittura si può anche trasmettere in continuo, non tantissimi dati, però tra l'altro guarda, si parla di diversi kilobyte. Allora, dai dati che ho io si parla da anche di 50 kilobit al secondo come velocità di trasmissione, e quindi di pacchetti anche di diversi kbyte ad ogni trasmissione. Quindi diciamo che non posso trasmettere delle immagini, ma posso trasmettere dati abbastanza strutturati. Sì, tra l'altro allora guarda, mentre Sigfox ha una struttura di pacchetti da 12 byte, ok, quindi tu hai il tuo pacchetto è da 12 byte, l'ora ha un pacchetto che viene definito dall'utente, quindi non c'è un standard vincolo. Un vincolo esatto sulla trasmissione dei pacchetti. Tra l'altro c'è una differenza anche tra quello, ovviamente per questioni di legislazione, c'è differenza di trasmissione fra per esempio l'Europa e l'America, cioè in America puoi trasmettere anche fino a 100 kilobit al secondo, mentre in Europa devi fermarti a 50 kilobit, probabilmente per una questione di occupazione della banda. E sì, penso sia un fatto di legislazione sulle frequenze libere, sì. Sì, sì, ma guarda, tra l'altro ho trovato la normativa su queste frequenze che... Allora, io leggo che l'ora può fare trasmissione continua, però nella normativa c'è scritto che tu non puoi fare una trasmissione continua se non in alcuni casi, che non ho approfondito quali casi, però diciamo che se vogliamo stare tranquilli, secondo me la trasmissione continua è meglio non farla. Diciamo che quella per da 5 minuti, un minuto, insomma, comunque non continua, giusto per stare tranquilli con la normativa. Beh, però scusa, stavo pensando, ma che cosa devi trasmettere in continuo? Un sensore? Ma... Cioè, o è davvero il sensore di un frigo, di quelli, che so, per le medicine, o di quelli che devono mantenere la temperatura costante e l'umidità costante, perché sennò c'è il cibo che va a male, o queste cose qua. Ma in quel caso non usi l'ora, metti wifi e chi si è visto si è visto. Ma no, io quello che ho pensato è qualcosa tipo se devi monitorare la portata di una tubazione, quanta acqua ci sta passando, o se devi chiudere una valvola più o meno a seconda della portata, insomma queste robe qua. che devono andare in continua. Certo, sensori di temperatura, sensori di temperatura, ma che comunque, dai, anche se c'è cibo che va male, se fai una lettura ogni 30 secondi mi sembra difficile che la temperatura subisca un cambio drastico ogni 30 secondi, insomma, mi sembra verissimo. Però, verissimo. Probabilmente le trasmissioni in continua, cioè, come dicevamo prima, non sappiamo esattamente tutto del mondo, però qualcosa sicuramente dovrà essere misurato in continua. Credo che riguardi qualcosa che deve essere monitorato in continua per la regolazione in continua. Ecco, questo. Vabbè, allora sì, sulla tubatura dell'acqua, sì. Sì, sì, perché magari a questi livelli qua, insomma, niente. Sì, di... sì. Dunque, un'unica cosa su cui stare attenti quando si compra dagli amici è che le schede che vanno bene sulle frequenze europee non vanno bene sulle frequenze asiatiche o americane, eccetera, perché sempre per questione di normativa cambia il tipo di banda e di banda passante e di frequenza, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare un attimino attenti a quello che si compra. Ci sono diverse diverse sigle. Schede con antenne diverse? Diverse sigle che identificano le diverse schede per le diverse aree geografiche, diciamo così. Ok, io direi anche di aggiungere un'altra cosa. Bisogna stare attenti quando si compra dalla Cina. C'è un lettore del mio blog che ci si è schiantato. Se comprate col Corriere Espresso, le spese di spedizione fanno cumulo per la dogana. Per la dogana, sì, sì. Visto certo. Che normalmente la dogana fino a 20 euro non fa niente, se voi comprate 15 euro di roba e 18 euro di Corriere Espresso, la dogana vi applica i dazi, le tasse, l'IVA anche sulla spedizione. Sì. Quindi fate attenzione, cioè se avete fretta vi conviene davvero andare a comprarlo su un sito italiano o europeo. Sì, Components, sì. Robot Italy e queste cose qua. Sì, sì, sì, cioè se ti fai i conti di quello che ti costa la spedizione più la dogana, probabilmente ma anche se ci fossero 2-3 ore di differenza, vuoi mettere il fatto che magari ti arriva prima e non ti rompi le scatole con la dogana, eccetera, eccetera. Se avete fretta, ordinate dall'Europa, anche se sì. Il prezzo è più alto, perché comunque vi costa meno. Assolutamente, sono completamente d'accordo, ma infatti io di solito, a parte non comprare con il Corriere Espresso, perché costa troppo, quindi è inutile che compro in Cina col Corriere Espresso, e poi cerco di spezzettare le spedizioni in cose, cioè che rimangano sui 20-25 euro, insomma. Devo essere sincero, Wemos ha fatto una cosa fichissima. Una volta ho ordinato roba per 50 euro, non ci ho pensato, e Wemos mi ha mandato 3 pacchetti. Che brave persone. Dai, sono veramente dei maledetti geni. Io l'ansia, no, 50 euro, ora devo pagarne altri 50 tra dogana e dazio, per fortuna no. Esatto, esatto. Mi pare che, vabbè, diciamo che, guarda, ce ne sarebbe da dire anche su, anche beh, ma secondo me potremmo approfondire quando poi facciamo le puntate monotematiche sui due progetti fatti. Anche secondo me, perché l'ora con il discorso che sei tu che gestisci il gateway, sul gateway c'è da dire un sacco di cose, un monocanale, diversi canali, quel tipo di trasmissione, addirittura il tipo di crittografia che puoi usare, che è standardizzata sull'ora, ce ne sono diverse, insomma c'è ancora da approfondire. C'è da farsi venire il mal di testa. Sì, e anche il mal di conto corrente. Ma no, con i cinesi dai, non costa tantissimo. No, per fortuna no. Comunque sono certo che il fatto che quando ci sbatteremo su queste cose scopriremo anche cose nuove, ovviamente, perché quando poi lo leggi teorico puoi leggere tutto quello che vuoi, quando poi davvero vai sul pratico ti accorgi che alcune cose che pensavi insormontabili sono difficili, sono facilissime, guarda con l'MQTT che pensavo fosse una roba difficile, 4 righe di codice l'hai fatto, oppure robe semplici che in effetti semplici non sono. Quindi sì, sono d'accordo. Ci aggiorneremo poi su questi due protocolli. Oggi era una puntata per introdurre la questione. Yes. Se non volete andare su questi tipi di radiofrequenze, ma rimanere sotto l'impronta del GSM GPRS, che comunque è ancora molto usato. Tornando sui negozi, moltissimi POS sono in GPRS. Ci sono, e ora sono forniti da quasi tutti i gestori di connettività italiani. Se voi cercate SIM M2M o SIM IoT, trovate roba di TIM, di Vodafone, di secondo me anche di Tre o di Wind. Ci sono dei gestori che propongono le loro SIM sul mercato mondiale. Per esempio, Giuliano me ne ha fatta vedere una che è proprio carina, si chiama Things Mobile. Loro ti vendono questa SIM che ha un costo di 10 centesimi al mega nei paesi principali. Comunque lei funziona dappertutto dove c'è copertura, giusto? Esattamente. Tra l'altro ci sono applicazioni che ancora vanno meglio con il GPRS. Sì, tenete conto che però gli shield dove si mette la SIM sono abbastanza cari, costano più sia di LoRa che di Sigfox, se non erro. Stanno calando? Sì, okay. Si trovano a buoni prezzi. Anche lì, sempre attenzione, perché quello che funziona in Asia, in America, potrebbe non funzionare in Europa. Io ne ho la riprova, per fortuna, perché ovviamente nella mia collezione vuoi che mi mancasse la Shield per il GPRS, ma quando mai? Ne ho comprata una in offertissima, l'ho pagata pochissimi euro, è arrivata qui e ovviamente aveva un firmware per l'Asia e non andava assolutamente bene. Per fortuna qualcuno aveva già avuto il problema prima di me, non è stato semplice trovarlo e risolverlo, però poi alla fine sono riuscito a farla funzionare, ma solo perché era compatibile col firmware che andava bene per l'Europa. Se becchi la scheda che ovviamente può montare solo un tipo di firmware. Bene, bene. Allora, attenzione, tutto quello che è trasmissione dati non su filo, purtroppo non ci sono standard, bisogna fare attenzione sempre. Assolutamente. Sai che anche il Wi-Fi a 5 GHz, la specifica mondiale dà una serie di canali. Stato per stato i canali cambiano, quelli che puoi e non puoi usare. Sì, beh, immagino. Ma per esempio in alcuni stati, forse in Italia, perché mi sono schiantato su questa roba quando ho messo le mani sul MikroTik a 5 GHz, per esempio puoi usare solo uno sì e uno no. Ah. Mentre tipo in Germania puoi usarli tutti. Ma bene. So. Non ho capito perché, ma sicuramente c'è una roba di... Sì, ma figurati. Che fa questa roba. Figurati, sicuramente è così. Ma comunque c'è da stare attenti quando si usa. Sì, sempre. Perché ci sono delle normative per cui c'è poco da aggiustare. E diciamo che queste SIM hanno sì dei costi fissi, perché se non erro TIM costa tipo 20 euro all'anno per avere 100 mega al mese, una roba del genere. No, aspetta, TIM aveva una scheda. Sì, ce l'ha TIM, sì. Quella che costava 3 euro al mese, com'era? Non mi ricordo. No, più, mi pare che fosse annuale. Sì, no, nel senso, la puoi fare annuale, però poi alla fine il costo è tipo 3 euro al mese. Mi pare l'avessi vista per l'allarme di casa, però poi non l'ho più ziccato sul sito. Aspetta, vediamo se riesco a trovare... Qualcosa tipo no, team, l'hanno cambiato leggermente. No, non mi ricordo, però c'è, sono sicuro che c'è, perché l'ho cercata anche da poco. Allora, c'è il team mobile ai 10 mega a 2 euro mese. No, era qualcosa, team house, team home connect. No, ma aspetta. Sai che... Ah, team home connect, esiste aspetta. Ancora? Guarda, ci sto andando. Beh, oddio, sul sito c'è, e parte da 1,50 euro al mese. Esatto, sì, ricordavo bene. Allora, che cosa ti dà? Vediamo un po'. Allora, 20 minuti di chiamate, 10 mega, cioè 100 mega di traffico internet e 100 SMS. Ogni perché non è male per un euro, guarda, e mezzo a mese, sì. 100 mega di traffico, insomma, se ne trasmettono di dati, eh? Sì, sì, con 100 mega se devi solo fare dei lettori di letture di sensori veramente poco. Lo appiccico sulla... Sì, bravo, mettilo nelle note. Mentre pronto. Things Mobile costa 10 centesimi per ogni mega, ma se non si fanno almeno, mi pare, 50 mega, costa 6 euro mese. Cioè, c'è una... bisogna andare a farsi quattro conti. Guarda, io avevo, sì, ho visto, ma tra l'altro adesso ho visto che, come si chiama, Fastweb sta facendo una pubblicità, ho visto solo il prezzo tipo 0,45 centesimi, però non ho capito bene che cosa è la storia di 45 centesimi. Vi ricordo sempre una cosa fondamentale, leggete tutte le cose piccole, ah, sempre. Sì, beh, figurati. Sempre. Soprattutto sui gestori di connettività. Guarda, non ne parliamo perché proprio stamattina mi ha chiamato un amico incazzatissimo. Lasciamo perdere. Ecco, l'euro e mezzo al mese, infatti dicono da un euro e mezzo, sta per un abbonamento, o meglio, non abbonamento, ma un pagamento anticipato per 24 mesi. Che, okay. Insomma, se a uno interessa. Però scusa, per esempio, fai una roba del genere con il sensore GPS, sì. Lo metti in macchina e hai l'antifurto fatto. Sì, ma guarda, addirittura in macchina, cioè con una roba del genere, in macchina potresti prendere un cellulare di quelli Android vecchi, che ha anche la telecamera, metterci dentro una specie di team viewer, quello che vuoi, e volendo potresti vederci anche chi ci sta in macchina. Ah, anche, sì. Non è un fatto di problema di corrente, perché quando la macchina è accesa la corrente c'è sempre. Ma anche a livello di batteria, non penso che butti giù la batteria. Sì, la batteria è sufficientemente grossa. Mi stiamo dando tante di quelle idee per fare delle start-up per diventare milionari, che se lo fate, per cortesia, almeno citateci. Ma sì, okay? Oltre che citarci, se poi, insomma, ci fosse anche qualche altra cosa... Non ci offendiamo. Almeno mandateci il prototipo per provarlo, ok? Vero, giusto? Vero, verissimo. Bravi. Poi ve lo restituiamo, sì. Allora, dai, siamo a 1:20. Direi che possiamo passare alle proposte per spendere soldi. Esatto. Chiamiamoli così. No, che le mie poi non sono tanto proposte per spendere soldi, ma ci manca poco. Allora, io comincerei con una cosa... che non è hardware, ma è software, anzi non è neanche software. È un sito che tu lo apri, mostsecure.pw, e vi fornisce una password che è stata calcolata per essere molto, molto sicura. Cioè, se tu non riesci a pensartene una abbastanza sicura, questo te la fa. Giusto. Per esempio, ora io lo apro e mi esce che la mia password molto, molto sicura è H maiuscolo 4 esclamativo B5AT più K ed è maiuscole e minuscoli, numeri, caratteri che lui definisce ambigui, i caratteri speciali, i simboli, 20 caratteri tutti diversi tra di loro, non è violabile. Ma scusa, e la tua password finisce con G maiuscolo UQ? Ma che cacchio di calcolo è? È uguale alla mia. Ah. No, dai, non ci credo. H maiuscolo 4 esclamativo B5AT. Sì, sì, quella. Allora cancellate il cazzillo. No, ma veramente, ma questi sono pazzi, guarda. Non ci posso credere. Mi viene veramente da ridere, perché cioè, non è possibile. È solo una. Ma pensavo che la generasse casualmente. È sicurissimo. No. Ma aspetta, ma qui c'è la genialata, perché se te la dimentichi vieni qui e la leggi. Allora non ho capito niente. Ok, allora diciamo che questa password non dovete usarla, andate su random.org e fatevela su random. Allucinante. Questa ce la segniamo. Sì, è proprio divertente. Ora vado a prendere quello che ha postato il link su Twitter e glielo dico. Ok, questa è stata però la però in effetti se tu leggi è the world most secure password, è una password, è la password. Guarda, secondo me è una presa in giro mondiale questa, vedrai. Bellissimo, bellissimo. Taglieremo tutto quanto per evitare la figura di merda, ma vabbè, non importa. Sì. Numero due. Dai, al numero due. Qualcuno con Arduino ha fatto un piano comandato da dei servo con un film resistivo. Tu ci butti una sfera di acciaio sopra e lui te la porta in centro. La sposti e lui non la fa cadere, la riporta in centro. Bisogna vedere quel video. Sì, è una roba bellissima. Tra l'altro è comandato anche da un nunchuck del Nintendo Wii. E quindi tu puoi spostare la pallina dove vuoi e lei tornerà sempre lì. Sì, tra l'altro ho visto che se tu sposti il piano, diciamo in una mezza diagonale, ovviamente non troppo ripida, e poi ci appoggi la pallina, lui cerca di tenere la pallina sempre nello stesso punto di come tu hai messo il piano. Spettacolare, veramente sì. Spettacolare. Bellissimo. È vero, l'ho visto e sono rimasto sorpreso, in effetti. Vai tu con i tuoi due. Bene, l'ultimo arrivato in casa proprio in questi giorni è un simpatico ESP32 che ha sullo stesso circuito, sulla stessa basetta, diciamo così, un display OLED. Quindi quello che si faceva prima mettendo insieme una dev board più un display OLED per poterci visualizzare varie informazioni, questo ce l'ha tutto integrato. Ha un display OLED e sulla dev board un ESP32 con ovviamente vari GPIO disponibili per l'utilizzo per poterci fare un qualsiasi prototipo che richieda l'utilizzo di un display. Prototipo che ovviamente essendo tutto bello già piazzato poi può diventare anche un progettino finito e quindi una cosa carina. Una cosa interessante qual è? Che ne hanno fatto una versione con ESP8266 che integra un display OLED da 1,3 pollici, un pochino più grande del classico 0,99 che abbiamo visto di solito in giro su internet per vari progetti. Il costo è abbastanza contenuto, perché se pensiamo che solo il display OLED da 0,99 di solito lo puoi trovare dai 3 ai 5 dollari. Tutta questa dev board costa $12, quindi tutto sommato. Scusa, ma quindi una UEMOS standard, perché poi quella che vedo su quello con il display da 1,3 è una UEMOS standard. Beh, con il display 11 euro e basta. Sì, allora, praticamente quella che tu vedi con il display da 1,3 dell'8266 è una dev board che somiglia più o meno per dimensioni non tanto a una Wemos quanto a una Node MCU. No, è proprio Wemos, è proprio prodotta da Wemos. Allora, c'è scritto così, ma non è esattamente così. Il mio dubbio è sempre solo uno: se è prodotta da Wemos significa che con l'IDE di Arduino funziona, perché io... No. Assolutamente. No, ma su questo non c'è dubbio. Che questa roba qua funzioni con l'IDE di Arduino è sicuro. Sia l'ESP32 che l'8266. Non c'è dubbio. Cambia in pratica il tipo di display e il tipo di ESP sul circuito. Però quello che dicono in giro per la rete è che quella Wemos l'all-in con l'ESP32 sia prodotta da Wemos, quello che noi conosciamo per il Mini, eccetera. Mentre invece quella con il display da più grande, con l'8266, non è prodotta da Wemos, ma è un clone di una cosa apparsa su un sito. Però sinceramente non è che ce ne freghi più di tanto. Funziona. Ma l'importante è che funzioni. Sì, assolutamente, funziona e come dicevi tu è compatibile con l'IDE di Arduino, insomma siamo sullo standard solo, quindi non c'è il minimo problema nella programmazione sia con Arduino, sì con l'IDE di Arduino e con la possibilità di metterci anche altri linguaggi, Lua, MicroPython, che io proverei volentieri se avessi un attimo di tempo, anzi, che probabilmente con questa storia del display probabilmente proverò, perché per visualizzare messaggi, eccetera, Python è un pochino meno rompino dell'idea di Arduino. Allora, io adesso vorrei farvi vedere, anzi, cercare il link del prodotto più bello del mondo. Che, tra l'altro, se non mi ricordo male... È stato fondato su Kickstarter tipo sì, in 20 ore, una roba del genere. Allora, questo pazzo, anzi sono in due, cos'è che hanno fatto? Hanno preso una piccolissima strisciolina di LED. L'hanno fatta piccola, adattabile, piccola. Ma scusa, piccola, veramente piccola, dicevo, sì, piccola, proprio microscopica. Si mette sulle palpebre. Come cacchio si chiama il trucco che si mette sulle palpebre? Il rimmel? No, non lo so. L'eyeliner? Quello lì, ecco. Sai, ho due donne a casa. È grande come un eyeliner. Tu te lo metti sulle palpebre, hai il controllo che ha una piccolissima striscia sottilissima che va dietro l'orecchio e te lo fissi sotto ai capelli, e in base a come muovi la testa questi LED si accendono e si spengono, fanno l'effetto di supercar, cambiano colore. Allora, è una tamarrata della Madonna, però è bellissimo. Aspetta, che ti metto il link perché non so se lo hai già visto. No, non l'ho visto quando il tizio l'ha presentato, non mi ricordo in quale evento. Infatti ho detto, ma questi sono malati forti. Anche perché non avevo mica capito. Allora, quando ho visto su Twitter la presentazione, non avevo mica capito come funzionava. Ho detto, ma come cavoli le accende sti affari? Soprattutto, da dove viene l'alimentazione di questi? Poi, leggendo la descrizione su Kickstarter, ho capito che praticamente ci sono dei fili sottilissimi che tu ti appiccichi praticamente alla pelle, che vanno fin dietro, e dietro hai il circuitino con la batteria e il controllore. E tra l'altro riprogrammabile, per cui volendo gli effetti sono anche, come si può dire, personalizzabili. Assolutamente, puoi scegliere anche di quale colore, e praticamente... Allora, il pacchetto base con la coppia e il controller di un colore solo costa $40. Sì, mi pare che quelli che sono arrivati per primi l'hanno pagato 20, però. No, 30. Solo che c'è scritto ships only to certain countries, quindi non so dov'è che arrivano. No, però in Italia ci sono. Ah, vedi. Con 52 dollari, quindi il pacchetto più le spese di spedizione te lo mandano a gennaio. E quindi, allora, diciamo, se siete abbastanza tamarri da mettervi questa roba qua... No, però... allora, io non uscirei mai con una roba del genere addosso. Però, l'ingegnerizzazione di questa cosa, secondo me, è fottutamente geniale. Guarda, io ti giuro che ho detto, ma... dei LED così micro, ma come cavolo, allora, intanto come cavolo li ha collegati uno con l'altro, perché deve esserci una miniaturizzazione in questa storia qua, o il tizio ha una fabbrica per cui ha avuto la possibilità di accedere a macchinari, ha avuto i contatti giusti delle persone che gli hanno fatto secondo me i LED li hanno fatti fare su misura. Ma assolutamente sì, tra l'altro sono fatti sul nastro, per cui sai, tipo le strisce, no? Quelle flessibili, ma tra l'altro sono LED microscopici. Sono impermeabili, non scaldano, non prendono fuoco, perché ci mancherebbe solo. Secondo me è l'idea geniale dell'anno, è così indossabile, però. No, ma io credo che da questa cosa qui verranno fuori tante altre cose, perché non so, cioè questo tizio è arrivato ad un livello di miniaturizzazione che io difficilmente ho visto anche nei wearable, vabbè, diciamo, ma anche nelle applicazioni sui tessuti, sui vestiti, eccetera. Io una miniaturizzazione così precisa non l'avevo mai ancora vista. Di solito i LED sono molto più grandi, molto più sì, tutto quello che è da indossare è tutta roba spessa che poi devi togliere quando lavi, che è scomodo, eccetera, eccetera. Allora, secondo me questo gadget qua ha solo forse un punto debole, che probabilmente è il collegamento tra i LED e l'apparecchiatura che sta dietro, perché scommetto che i fili che collegano le cose devono essere talmente sottili, cioè stiamo parlando a livello di cappello, credo. Sì, perché io penso che i LED internamente siano come i LED quelli di ADA Fruit. Sì, con un controller, cioè tipo quelli per ogni singolo LED. Di conseguenza tu parli con tre fili e li comandi tutti. Sì, assolutamente, certo. E però devi passare quei tre fili più la massa. Aspetta, tre? Tre in tutto. Allora io ho usato uno di quei LED sul lumino notturno che ho messo in camera, perché ho fatto la Wemos con il LED, lo comando dal mio bot Telegram e pianificandolo lui si accende e si spegne. E c'è lo shield della Wemos. E mi pare che fossero collegati tre o quattro fili. No, guarda, ti confermo, sono quattro, perché ho quella chilata di roba anch'io qui che non ho ancora usato e sono quattro, sì. Praticamente puoi controllare X LED. Con quattro usi anche le strisce quelle tipo 8x40 che vendono su ADA. Adafruit per fare le scritte in circolo. Ah, ok. Che tra l'altro sono di una banalità. È già tutto fatto. Sì. Cioè tu devi soltanto mettere il testo, il colore e la velocità. Boh, e fa tutto lui. Grazie Adafruit per aver sviluppato queste incredibili librerie che ci hanno facilitato la vita. Le librerie di Adafruit al pari della conversione dell'ESP su Arduino sono... Per chi fa queste cose, la manna dal cielo. Assolutamente, proprio. Perché programmare in C direttamente l'ESP è un casino. Va bene, dai, direi che abbiamo raggiunto l'ora e mezza, possiamo fare che salutare tutti. Ma sì. Ricordare a tutti quanti che noi siamo trovabili, il posto più facile dove si chiacchiera di più è il canale Telegram. Lì chiacchieriamo di continuo, stanno parlando anche ora mentre noi stiamo registrando. È telegram.me/gcookies. Ci sono le discussioni su GitHub, se volete proporre progetti di qua di là e li mettete là, restano, perché su Telegram c'è questo difetto che poi le cose passano. Se usate Telegram e ci volete proporre un cazzillo, se mettete l'hashtag cazzillo, un bellissimo bot che ha fatto Giuliano lo memorizza in un file e nella quindi cazzilopedia. C'è l'archivio la cazzilopedia, sì e quindi possiamo andare a cercarli, perché in effetti di un qualcosa che è stato proposto 3 mesi fa su Telegram con quello che si parla diventa difficile, certi giorni si arriva a 500 messaggi, diventa veramente difficile. Ci trovate su ogni piattaforma, iTunes, Stitcher, Player FM, Spreaker, tutto, anche su Facebook, su Twitter, su G+, ci siamo ancora, forse sì, ma non so ancora quanta gente lo usi. Ma comunque, se volete parlare con noi, la cosa più facile è il canale Telegram, ok? Facile e immediata, sì. Abbiamo detto tutto dal forno di Torino, Francesco vi saluta. E anch'io qui dal fornetto sardo che, insomma, ci sono fuori 35 gradi ed è in aumento, vi saluto caldamente, ecco. Ottimo, grazie. buon pomeriggio e buona serata a seconda di quando state ascoltando e alla prossima, speriamo tra un mesetto. Ciao! Ciao a tutti!